l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta, Radio 24, quasi 7 minuti dopo le 12. Claudia Scattone, come in assistenza, Filippo Aureggi, oggi alla parte tecnica, questa la squadra dell'Altra Europa. Un programma in collaborazione con il network Euronet Plus, lo sapete. Cerchiamo di raccontare questa Europa attraverso le persone, le storie, le possibilità e le opportunità. Oggi tante belle testimonianze. Le coordinate prima per seguirci anche virtualmente: Euronet Plus R24 oppure chiocciola Federico Taddia per trovarci su Facebook e Twitter. Lì e potrete rileggere tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare e poi i nostri siti di riferimento euronetplus.eu o ancora radio24.it, da dove poter poi riascoltare la puntata. Si parte ogni settimana un viaggio, la prima tappa oggi è Lesbo. Siriani, afghani, iracheni e non solo, centinaia di persone che sbarcano sull'isola di Lesbo alla ricerca di questa disperata porta verso l'Europa, una terra che incrocio di sofferenze, di speranze, di tante tante storie. E tra tutte queste storie abbiamo trovata una che ci piace, perché è anche l'altra faccia della solidarietà e l'altra faccia dell'accoglienza. Si chiama Valesa Porcellato, un veneto, è membro del collettivo Foto Social. Ha 31 anni, ha deciso di abbandonare il proprio lavoro, di licenziarsi, andare a Lesbo come volontario. Abbiamo la fortuna di averlo qua con noi. Ciao Valesa, benvenuta all'Altra Europa. Ciao Federico, grazie mille. So che in questi giorni o in queste ore, se non erro, ti trovi ad Atene, vero, per una breve vacanza? Sì, ho preso 2 giorni per un po' di de-stress, diciamo. Come mai questa scelta? Da dove nasce il desiderio di mollare tutto e andare a Lesbo? Beh, come hai già ricordato, faccio parte di un collettivo fotografico, siamo molto attivi nei temi sociali, diciamo. Ultimamente stiamo seguendo le migrazioni e quindi c'è anche un interesse, diciamo, artistico per essere venuto qua. Mm-hmm. Questo, diciamo, è quello che ha iniziato a muovere la mia idea di venire ad aiutare, però qualcosa c'è sempre sotto, nel senso, bisogna essere dalla parte giusta, qualcosa sta succedendo, una grande migrazione, e io ho deciso, insomma, di fare la mia parte. Valese, cos'è, tu sei arrivato da un paio di mesi, giusto? I primi di gennaio, se non erro. 6 gennaio. Uh-huh. Che situazione hai trovato? La situazione cambia tantissimo, è incredibile, perché nel giro di giorni può cambiare veramente drasticamente. Per esempio, io sono arrivato e c'era un flusso, diciamo, abbastanza continuo di gente, e ovviamente c'era anche abbastanza la presenza di volontari internazionali. Adesso c'è un po' la chiusura, diciamo, da parte delle comunità greche verso i volontari, e la gente arriva un po' meno, anche se negli ultimi giorni, da quanto ho sentito, hanno ripreso gli sbarchi. Mm-hmm. Comunque, prego. C'è veramente, come posso dire, un forte fermento anche dal punto di vista, diciamo, dei campi profughi. È una continua costruzione, si vedono ruspe, si vedono un sacco di persone che stanno lavorando, stanno cercando di potenziare, diciamo, i servizi che danno, soprattutto alla parte greca dell'autorità. Ma c'è organizzazione, c'è collaborazione o si lavora un po' allo sbaraglio? Diciamo che dal momento in cui le Nazioni Unite hanno preso in mano la situazione c'è un po' più di coordinamento, però siamo abbastanza distanti, diciamo, dall'essere veramente coordinato. C'è anche un po' di problema perché, come posso dire, ci sono due differenti movimenti. Uno che è quello, diciamo, la base europea che viene a aiutare e che ovviamente si auto-organizza, e poi ci sono, diciamo, le grandi associazioni, organizzazioni, l'ONU, comunque le NGO che operano e ovviamente sono molto più organizzate rispetto, diciamo, ai movimenti volontari. Certo. Tu collabori con Action Aid e di cosa ti occupi in particolare? Allora, io tappo buchi, mettiamola così, nel senso che ActionAid ha qui una presenza con due campi, diciamo, nei due campi, con un centro di donne, di Friendly Space for Women, e aiutano, diciamo, le donne che non hanno un accompagnatore o che comunque viaggiano con figli, che ultimamente sono la maggioranza. Ci sono dei mediatori culturali che ovviamente sono donne, io aiuto, diciamo, i mediatori, nel senso trasporto i mediatori a lavoro, cerco di sistemare, diciamo, i problemi che possono avere, oppure porto la logistica più pura, muovere scatoloni, sistemare le donazioni che arrivano dalle persone che aiutano ActionAid, insomma. Certo. E poi c'è la macchina fotografica. Cosa vuol dire raccontare tutto questo con un obiettivo e cercare anche un lato artistico, se così si può definire, nella disperazione? Beh, intanto non chiamiamola disperazione, anzi è una cosa che io ho notato. Diciamo che dalla parte del fotografo posso dire che fino ad ora si è visto solo la parte peggiore. In realtà quando c'è uno sbarco è veramente un'occasione di gioia. La gente scende dalle barche e ce l'ha fatta, quindi sono contenti, si fanno i selfie, cantano, vengono ad abbracciarti, è una cosa molto diversa rispetto a quella che si vede dai grandi media, insomma. E infatti io sto cercando di far vedere questa immagine, non quella della disperazione, che comunque c'è, perché voglio dire, è gente che scappa dalla guerra, quindi c'è un po' di problemi. Certo, quindi insomma cerchi di raccontare anche questo altro lato dell'accoglienza. È chiaro, e poi soprattutto mi sto focalizzando sui volontari, perché veramente qui ci sono persone splendide che vengono da tutta Europa e anche da tutto il mondo, insomma, che aiuta, e quindi mostrare che cosa riescono a fare le persone quando si mettono assieme, uno dei miei obiettivi a livello fotografico. collettivofotosocial.com, il sito di riferimento del collettivo. Grazie davvero Valesa per la tua testimonianza. Buona vacanza, buona questa 2 giorni, e prenditela tutte, poi buon lavoro quando tornerai a Lesbo. Ciao e grazie, buon sabato. Noi ci fermiamo, un Europost-it, il traffico, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Festival delle carriere internazionali. Vi state affacciando al mondo del lavoro e siete intenzionati a intraprendere una carriera internazionale? A Roma, dal 5 all'8 marzo, si svolgerà, con il patrocinio della rappresentanza in Italia della Commissione europea, il primo evento dedicato interamente ai giovani che vogliono farsi strada nel competitivo mercato del lavoro all'estero. Si tratta del Festival delle Carriere Internazionali, evento orientato al lavoro e all'internazionalità come fattori di crescita. 200 espositori e 4 giorni di full immersion, in cui più di 30.000 ragazzi avranno la possibilità di confrontarsi con funzionari di organismi internazionali, rappresentanti delle più importanti ONG in Italia e nel mondo e human resources di prestigiose aziende. Per tutte le informazioni visitate il sito ufficiale dell'evento festivaldellecarriereinternazionali.org. L'altra Europa. This is Ava, a brilliant researcher with an interesting project. Ava wants to research the feasibility of teleporting molecules. To carry out her project, Ava is looking for support and funding. Someone told her about the ERC. The ERC is the European Research Council. Its funding schemes, open to individual researchers from all over the world, offer long-term growth. Ancora l'altra Europa, e questa è davvero l'Europa delle possibilità e l'Europa delle opportunità. Questa settimana si è parlato molto degli ERC, l'European Research Council, il Consiglio Europeo della Ricerca, programmi di finanziamento per la ricerca scientifica. C'è stata una polemica a distanza tra una ricercatrice e il ministro Giannini. Non vogliamo entrare nel merito della polemica, ma vogliamo capire meglio come funziona questa forma di finanziamento e perché sia un motore essenziale e fondamentale per la ricerca in Europa. Tutto ciò lo facciamo con Massimo Gaudina, che è responsabile della comunicazione per il Consiglio Europeo della Ricerca. Buongiorno Gaudina, bentornato all'Altra Europa. Buongiorno Federico, buongiorno. Buongiorno. È stata una settimana impegnativa anche per voi, o questa polemica vi ha solo sfiorato? Beh, diciamo che c'è stata una richiesta di informazioni più consistente del solito, mettiamola così. È stata una settimana abbastanza intensa, sì. Allora, tra l'altro anche noi insomma, periodicamente abbiamo avuto il piacere di intervistare alcuni dei ricercatori, alcuni degli scienziati che hanno vinto questi bandi. Cerchiamo un po' di spiegare bene come funziona il tutto. Che cos'è l'ERC? Allora, l'ERC è una creatura della Commissione Europea. Intanto diamo a Cesare quel che è di Cesare e alla Commissione Europea quello che è della Commissione di Bruxelles. È un'agenzia creata nel 2007 che è diventata un po' la Champions League, è stata ribattezzata così, della scienza e della ricerca in Europa. In cosa consiste? Consiste in una serie di bandi annuali, di competizioni a cui partecipano i ricercatori di tutto il mondo per fare ricerca in Europa. Parliamo di un budget di quasi 2 miliardi di euro all'anno, parliamo di borse molto consistenti. La media è di 2 milioni di euro per un singolo vincitore di queste borse. L'obiettivo quindi è quello di trattenere in Europa o di far tornare in Europa i migliori cervelli e al tempo stesso di far avanzare la ricerca, perché parliamo di ricerca di frontiera, di ricerca di base, quindi la ricerca che può dare degli sviluppi importantissimi in tutte le discipline del sapere. Allora, le caratteristiche dei bandi dell'ERC sono quelle di essere aperti, come abbiamo detto, a ricercatori di tutto il mondo e a tutte le discipline scientifiche. Non ci sono priorità imposte dall'alto, ma qualunque disciplina, dalla fisica alla biologia, l'archeologia, il diritto e tutte le scienze possono partecipare a questi bandi. Quindi ogni anno abbiamo tre bandi principali che si indirizzano a tre diverse categorie di ricercatori. Il bando per i giovani, che si chiama Starting Grant, sono i ricercatori che hanno concluso da poco il loro dottorato e hanno una borsa di circa 1,5 milioni di euro ciascuno per poi costruire un'equipe di ricerca attorno a loro. Poi c'è il bando Consolidator Grant, che è quello uscito in settimana, di cui si è parlato molto, soprattutto in Italia. Questo bando si rivolge ai ricercatori che sono già indipendenti e che hanno già un certo numero di anni dopo il dottorato. Parliamo di massima della fascia di ricercatori che hanno tra i 35 e i 40 anni, per avere un'idea. E hanno ciascuno di loro 2 milioni di euro se vincono il bando dell'ERC. E poi c'è il terzo bando che si chiama Advanced Grant ed è riservato a scienziati già affermati che sono quelli che fanno avanzare davvero le frontiere della conoscenza. Abbiamo anche avuto dei premi Nobel tra i vincitori di questo Advanced Grant e che hanno finanziamenti ancora più importanti e quindi sono la terza componente di questa strategia. Perché è importante tutto questo? Perché l'Europa ha deciso qualche anno fa di investire molto nella ricerca di base e nei ricercatori. Quindi al di là del bisogno di applicazioni, al di là del bisogno di applicare la ricerca poi al mercato, all'industria o alla società, qui parliamo davvero di ricerca di base, perché è un problema europeo il fatto che molti dei nostri migliori talenti rischiano di lasciare il nostro continente per andare a cercare opportunità altrove. Con queste borse molto consistenti e molto ambite e molto selettive, l'Europa si è rimessa nella competizione globale per i migliori talenti, quindi allo stesso livello degli americani o degli asiatici l'Europa è tornata nel radar della competizione globale grazie a queste borse che attirano ogni anno migliaia di candidati e di questi generalmente il 10-15% invece vince la borsa e quindi può veramente fare un salto qualitativo nella sua carriera e al tempo stesso nella propria disciplina scientifica. Certo, tra l'altro i ricercatori italiani spesso sono insomma tra i più numerosi anche, insomma ci sono ottimi risultati circa l'assegnazione di questi bandi. Per la Commissione Europea ha importanza che un italiano poi vinca e vada in Olanda o un olandese vada in Francia, o l'importante è favorire la ricerca europea, che sia in un'azione o nell'altro, che ci sia questa mobilità tra i ricercatori, interessa qualcosa? Beh, diciamo che dal punto di vista europeo la priorità è quella di fare in modo che i nostri ricercatori europei restino il più possibile in Europa invece di cercare opportunità altrove, esatto. E soprattutto restino nel mondo della ricerca, perché alcuni di loro abbandonano decisamente la carriera in mancanza di prospettive. Per cui ogni paese ha la propria politica di ricerca, ha i propri finanziamenti alla ricerca e in più l'Europa ha deciso di creare questa grande competizione europea proprio per dare un'opportunità in più molto forte agli europei, ma anche a quelli che sono al di fuori dell'Europa, compresi gli europei che sono in America, per esempio, che grazie a delle borse ERC sono già tornati in Europa, e ci sono anche alcuni americani, alcuni cinesi, alcuni giapponesi che hanno vinto le nostre borse. Quindi la priorità è quella di rafforzare la base scientifica europea. Poi sulla divisione tra paesi il discorso cambia, non è un discorso che Bruxelles fa, nel senso che per noi quello che importa è l'avere molti finanziamenti per la ricerca europea. Evidentemente è importante anche che tutto questo non si concentri soltanto in poche isole d'eccellenza, ma che tutti possano beneficiarne. Certo. L'ERC comunque è soltanto uno dei tanti strumenti europei, è lo strumento che si rivolge all'eccellenza. Poi ci sono altri strumenti che si rivolgono alla coesione tra territori e tra regioni, ci sono i fondi strutturali che possono anche aiutare il mondo della ricerca in tante regioni, in tanti paesi europei, ci sono altri programmi nell'ambito del programma quadro Orizzonte 2020 che hanno appunto tanti altri obiettivi, e con tutta questa serie di obiettivi si vuole garantire al tempo stesso eccellenza e coesione. Queste sono le due parole chiave. Grazie davvero Massimo per averci fatto una fotografia di questo importantissimo programma. erc.europa.eu, questo è il sito di riferimento. Ci ritroveremo sicuramente in una delle prossime puntate dell'Altra Europa per raccontare ancora la ricerca di frontiera. Buon lavoro! Io vi ringrazio e ci auguriamo tutti che i risultati anche in Italia continuino ad essere soddisfacenti e che gli italiani possano trovare soddisfazione nel paese che preferiscono, naturalmente compresa l'Italia. Se posso concludere con una buona notizia, l'Italia è al primo posto nel bando che è stato annunciato questa settimana in termini di donne vincitrici di una borsa ERC. Parliamo di nazionalità, le donne italiane sono state 16 su un totale di poco più di 60, per cui è stato veramente un risultato straordinario. E un altro buon risultato per l'Italia sono i giovani che compongono le equip di ricerca degli ERC, cioè non i vincitori, ma i loro collaboratori e i giovani ricercatori che lavorano insieme a loro. In questa classifica particolare l'Italia è al primo posto in tutta Europa per numero di ricercatori che partecipano a questi bandi. Quindi ci sono dei segni positivi, ci sono delle buone notizie che dovrebbero incoraggiare anche l'Italia e il sistema Italia a investire in ricerca. Assolutamente, siamo ben contenti di poterne parlare. Grazie ancora, ciao e buon lavoro. La mobilità, il viaggiare, il mettere il naso fuori dal proprio confine per toccare, capire, contaminarsi, questo è un po' il cuore, il diffondere questo entusiasmo, il cuore di un concorso che è arrivato alla sua 14ª edizione, si chiama Racconta Estero ed è promosso dall'Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia, un concorso che chiede agli studenti e non solo, alle persone, ai giovani che hanno avuto possibilità di vivere un periodo un periodo all'estero, un periodo dei propri studi, un periodo anche di un tirocinio lavorativo, un Erasmus, uno scambio scolastico, un'esperienza di volontariato europeo. Insomma, chi ha vissuto questa parentesi di vita all'estero chiede di raccontarla, di diventare testimoni con le parole, perché quella che è un'esperienza intima possa diventare anche un'esperienza sociale per contagiare anche altri coetanei e magari far venire loro la voglia di partire. Un concorso che vedrà oggi pomeriggio alle 18 il suo momento finale presso la Casa dello Studente Zanussi di Pordenone, dove tra l'altro avrò anche io il piacere di esserci per premiare i vincitori che abbiamo l'onore di avere qua con noi al telefono. Per la sezione Over 18 da Pio Sasco in provincia di Torino c'è Valeria Albanese. Ciao Valeria. Ciao, grazie mille. Credo tu sia in treno in questo momento, sì, verso, esatto, Pordenone. Sono in viaggio. Esatto. Invece per la sezione Under 18 l'abbiamo beccata, che era a scuola, era scuola e liceo classico a Padova, 17 anni. Diamo il benvenuto ad Anna Afragno. Ciao Anna. Ciao. Allora Valeria, partiamo da te, che sei la più grandicella. Quale esperienza hai narrato? Sì, io ho raccontato della mia esperienza in Olanda in quanto ho affrontato questo anno di servizio volontario europeo, che è una sorta di servizio civile ma all'estero e finanziato dalla Commissione europea. Il progetto è durato un anno ed ero in un centro di recupero per animali esotici. Sono ritornata a giugno dell'anno scorso, 2015, e niente, ho deciso di raccontarla in queste 3.000 battute, che comunque sono state pochissime, perché è stato davvero difficile riassumere un anno di viaggio in così poche parole, e niente, è andata bene, insomma. Tra l'altro, ho letto il tuo testo, che sì, tra l'altro i racconti sono pubblicati sul mensile di IRSE Il Momento, ed è un racconto molto bello, perché tu hai descritto con nome queste persone, sì, e in verità solo alla fine si scopre che erano animali, e quindi c'è una bellissima sorpresa finale. Esatto. Sì, volevo provare a dargli un'anima, un qualcosa di un po' più... come dire, che potesse toccare forse un po' di più l'animo delle persone, per poi scoprire alla fine che in realtà appunto queste persone non erano persone ma erano animali, che però per me quell'anno sono state appunto un po' come dei compagni di viaggio, un po' come se fossero state degli amici, ecco. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa, chiocciola Federico Taddia oppure chiocciola Euronet Plus R24, i nostri profili Twitter e Facebook. Stiamo raccontando la mobilità e lo facciamo con le vincitrici del concorso Racconta Estero 2015, il concorso promosso dall'Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia. La premiazione oggi pomeriggio alle 18. Abbiamo ascoltato il racconto di Valeria, della sua esperienza di un anno in Olanda, dove ha fatto volontariato in un centro per animali maltrattati. E Valeria, ma lo sapevi che saresti andata a lavorare con gli animali? Sì, anzi l'ho proprio scelto io, nel senso che al momento dell'iscrizione si può scegliere appunto l'ambito, il progetto che più interessa, e io ero focalizzata comunque sugli animali, per cui sono stata anche fortunata ad essere scelta per questo progetto. E sei rimasta in contatto con qualcuno, non degli animali ovviamente, ma degli altri volontari con cui hai lavorato? Sì, assolutamente, sono ancora in contatto con le mie ex coinquiline, in realtà, con cui ho convissuto un anno. Era una casa molto multiculturale, c'erano due ragazze portoghesi, una ragazza spagnola, un inglese, per cui anche quello è stata fonte proprio di esperienza e ispirazione. E proprio la prossima settimana andrò a trovare una delle mie ex coinquiline che ancora lavora lì, in Olanda. Ok, quindi torni su. Anna, tu invece che esperienza hai vissuto? Io ho vissuto un anno all'estero in Finlandia, ho passato il terzo anno di scuola superiore in Finlandia appunto, quindi è stato un anno di studio e ho vissuto in una famiglia, quindi anche di immersione nella cultura e nella famiglia tipica finlandese. Finlandia dove? Io ero a Helsinki, okay, ero quindi... fuori, che comunque era insomma a Bosco. E che anno è stato? Ti ha cambiato la vita? Mi ha cambiato, non so se mi ha cambiato la vita, ma certamente è stato un anno che mi ha cambiato, alla fine... È stato un anno che mi ha aperto gli occhi, mi ha aperto la mente nei confronti non soltanto della cultura finlandese, ma di tutte le persone da tutto il mondo che erano con me. Mm-hmm. Poi Helsinki è una città, una grande città, insomma, comunque piena di diverse culture, quindi sì, certamente mi ha cambiato. La stessa domanda per entrambe. Anna, è facile... far vivere agli altri quello che si è passato, quello che si è vissuto in questo anno? Cioè, una volta tornate a casa, siete riuscite a trasmettere quello che vi è successo? Beh, penso che trasmettere sia impossibile del tutto, però ci si può raccontare, si può chiaramente raccontare aneddoti. E se penso che una persona non possa capire pienamente quello che io e penso anche Valeria abbiamo vissuto, ma si ritrova nell'atteggiamento, nel carattere della persona una volta tornata, quindi sono esperienze che ci portiamo con noi, per quanto non si possano raccontare del tutto. Mm-hmm. E anche per te, Valeria, è stato così? Sì, diciamo che io ce l'ho messo e ce lo sto mettendo tutto a cercare di trasmettere tutto il mio entusiasmo per il progetto che ho affrontato e cercare di, insomma, coinvolgere più persone possibili. Però sicuramente sì, la cosa migliore è buttarsi e provarci in prima persona. Complimenti ad entrambe, l'appuntamento ve lo ricordo oggi alle 18 presso la casa dello studente Zanussi di Pordenone per la premiazione di Racconta Estro Irse, il premio promosso dall'Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia. Complimenti ancora e buon viaggio, ciao! Grazie, buon lavoro. Europost-it. Premio Pop Drama. Sei un aspirante drammaturgo o hai un testo teatrale inedito nel cassetto? Il Centro Diego Fabbri ha lanciato Pop Drama, il premio europeo di scrittura teatrale pensato per promuovere la nuova drammaturgia su scala internazionale. Il concorso è aperto a qualunque autore voglia cimentarsi con un testo teatrale che abbia come riferimento temi di grande rilievo umano e sociale. Sono ammesse tutte le opere italiane inedite di lunghezza compresa tra le 40 e le 60 pagine. Il progetto Pop Drama verrà portato avanti simultaneamente in 4 paesi europei e il testo vincitore verrà tradotto in 3 lingue, pubblicato e fatto circolare a livello internazionale. I testi dovranno essere inviati entro il 31 marzo, secondo le istruzioni indicate sul sito centrodiegofabbri.it. Continuiamo a viaggiare all'altra Europa, anzi continuiamo a dare consigli di viaggio, in particolare per la terza età, e lo facciamo attraverso un progetto che si chiama Escape, finanziato dalla Commissione Europea, progetto della durata di 18 mesi, è stato presentato il 4 febbraio a Firenze, il risultato di questo studio, di questa sperimentazione che si è concretizzata in una app per i seniors in vacanza. Di tutto ciò ne parliamo con Claudio Bianchi, presidente di Promo Firenze. Buongiorno Bianchi, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a tutti. Cosa vi siete inventati? Beh, è stato un progetto per studiare quello che è il turismo senior, comprendere quali sono le esigenze di questi cittadini europei turisti, e comprendere come tutte le componenti del mondo del turismo potevano aiutare e facilitare il loro cammino per l'Europa. Uh-huh. Belgio, Bulgaria, Cipro, Francia, Italia e Portogallo, le nazioni coinvolte in questo progetto, che appunto è terminato con la creazione di un portale web, Escape to Europe. Di cosa si tratta? Cosa si trova in questo sito? Sì, siamo partiti dall'individuare quali sono le esigenze e le preferenze di questo tipo di turismo per sviluppare dei pacchetti di turismo sostenibile proprio dedicati a queste persone. Quindi una volta individuate quelle che erano le esigenze, qual era il loro modo di muoversi, quali erano i capisaldi nella ricerca del loro tipo di turismo, abbiamo studiato dei pacchetti speciali per loro, per appunto essere avere maggior appeal verso questo tipo di turisti, che sono un po' particolari, che hanno due caratteristiche particolari, che sono avere più tempo della durata del turismo normale e anche avere un alto livello qualitativo delle ricerche, stanno molto attenti a quello che è l'enogastronomia, a quello che è il turismo sportivo, come dicevo è un turismo di una durata superiore, è un turismo che dura alle 4 alle 7 notti e non il cosiddetto turismo mordi e fuggi con cui spesso ci troviamo a doverci confrontare. È un turismo preparato e anche economicamente ben saldo. Uh-huh. E nazioni diverse, però potenzialità comuni, nel senso che i turisti anziani, definiamoli così, delle varie nazioni coinvolte, si muovono allo stesso modo, cercano le stesse cose? Sì, ci siamo resi conto che su per giù cercano le stesse cose. Per esempio, sono molto preparati sul mondo internet. viaggiano molto sulla rete, confrontano offerte, studiano itinerari e sono molto preparati su quello che è la rete, oppure amano molto il turismo, quello sportivo, turismo dedicato al trekking o anche al nuoto addirittura. Quindi comunque ci rendiamo conto che le richieste di questi turisti sono similari in tutta Europa. Insomma, questo è importante. Escape to Europe.eu, questo è il portale già attivo, e poi c'è anche l'app corrispondente, se non sbaglio. Anche l'app, che sarà pronta brevissimo. Perfetto. Grazie davvero, buon lavoro. Le pare. Grazie a voi, arrivederci. Adesso un euro post-it, ci fermiamo per il traffico, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. Tirocini a EDPS. EDPS, Sovrintendenza Europea per la Protezione dei Dati, offre diverse opportunità per tirocini retribuiti e non. EDPS è un'autorità di sorveglianza autonoma di livello comunitario responsabile per il controllo della gestione dei dati personali da parte delle istituzioni europee. Si occupa di fornire consulenze in materia di politiche e legislazioni per la privacy e coopera con autorità simili per assicurare una consistente protezione dei dati. I candidati selezionati per i tirocini si occuperanno di supportare il team di EDPS durante l'attività giornaliera dell'autorità di sorveglianza e si specializzeranno nella protezione dei dati. Per consultare tutte le offerte, visitate la sezione risorse umane del sito secure.edps.europa.eu. L'altra Europa. E queste sonorità ci accompagnano all'interno del prossimo progetto, ci accompagnano danzando, perché si parla di danza. Un progetto che si chiama United, finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Erasmus Plus, si tiene a Fasano in provincia di Brindisi, promosso dall'associazione ASAP Europe, e sono 40 giovani provenienti da 8 nazioni diverse coinvolti in una 8 giorni, una settimana incentrata sulla conoscenza interculturale attraverso appunto la danza. Di tutto ciò ne parliamo con Maria Grazia Pinto, coordinatrice del progetto. Ciao Maria Grazia. Ciao a tutti. State ballando? Sì, adesso è il turno della Spagna e quindi si stanno lanciando in diversi tipi di danze, insomma, perché il territorio spagnolo comunque offre una certa varietà di danze, quindi insomma. Italia, Lituania, Polonia, Grecia, Macedonia, Croazia, sì. Spagna e Romania, sono queste le nazioni coinvolte. Sì. Come è sviluppata la settimana e soprattutto ancora prima, come vi è venuta questa idea? Diciamo che volevamo organizzare uno scambio, quindi il target è composto da ragazzi da 18 e 30 anni. Negli scambi di solito partecipano ragazzi molto, molto giovani, quindi da un lato abbiamo pensato che l'Europa offre comunque un patrimonio molto ricco di danze che spesso non si conoscono solo le più famose. Per esempio adesso i ragazzi spagnoli ci chiedevano quali danze conoscete della Spagna, e noi conoscevamo solo e soltanto il flamenco, ma ce ne sono tante altre. E dall'altro far incontrare ragazzi così giovani e fare in modo che si possano scambiare informazioni e conoscenze del proprio paese, abbiamo pensato che la danza fosse uno strumento molto veloce, perché ci si muove insieme, ci si diverte soprattutto, e quindi era uno strumento utilissimo per agevolare questo dialogo interculturale che era, insomma, il fine ultimo, diciamo, di questo tipo di progetti. E serve per rinsaldare delle relazioni tra i ragazzi, quindi insomma la danza come strumento di conoscenza interculturale. Ma e che storie hanno i partecipanti? Sono interessati all'Europa? Sono danzatori professionisti? Sono operatori culturali? Qual è un po' il target? Diciamo che è misto, e questa è proprio la cosa bella, che permette di raggiungere, permette di fare attraverso questo tipo di progetti, perché per la Commissione europea non c'è un criterio specifico per selezionare i partecipanti, non è necessario avere uno specifico background culturale o lavorativo, eccetera, ma soprattutto negli scambi è aperto anche a ragazzi che non hanno mai fatto questo tipo di esperienze. E quindi in questo gruppo abbiamo da danzatori per hobby, danzatori professionisti, ragazzi che si sono approcciati a questo tipo di esperienza per la prima volta. La cosa bella è che in particolare questo gruppo è un gruppo molto attivo di ragazzi che hanno trovato subito una fortissima sintonia, e quindi ci sono per ogni gruppo, diciamo che c'è un group leader aiuta il proprio gruppo nazione a insegnare agli altri i passi base di almeno una danza scelta. Diciamo che la prima giornata è stata dedicata un po' alla conoscenza del programma Erasmus Plus e di quali sono le finalità, e poi pian piano abbiamo fatto delle sessioni che toccassero argomenti come l'inclusione sociale, la partecipazione attiva, e via via abbiamo iniziato con i vari workshop. Ogni nazione presenta la propria nazione e poi prepara il workshop delle danze, e martedì sera ci sarà una serata finale in cui tutta la cittadinanza è invitata a conoscere questi ragazzi e a ballare tutti insieme. Ah, quindi una serata aperta insomma anche al territorio. Sì. Maria Grazia, cosa significa raccontare l'Europa a Fasano, nel Sud Italia, così lontano da Bruxelles? Quando siamo usciti tutti insieme, per esempio ieri pomeriggio per un'uscita, tutti e 40, insomma, la gente ci guarda un po' straniti, anche perché la metodologia che viene utilizzata in questo tipo di progetti, la metodologia raccomandata comunque dalla Commissione europea, è quella dell'educazione non formale. Quindi si utilizzano molte attività di gruppo, energizer, che sarebbero insomma delle attività molto simpatiche per creare anche uno spirito di gruppo e per rompere il ghiaccio. E quindi ci siamo fermati in piazza, abbiamo fatto un gioco divertente, tutti ci guardavano come se fossimo degli alieni, però è un segnale importante anche per i ragazzi di Fasano. Infatti ci sono anche nel gruppo italiano, ovviamente ci sono ragazze che vengono dal nostro paese, ed è molto importante perché poi loro ne parlano agli amici e si diffonde la conoscenza di questi programmi, che purtroppo ancora non è molto, molto diffusa, e quindi molti ragazzi perdono la possibilità di conoscere, di viaggiare, di imparare a viaggiare. E comunque sono delle occasioni importanti di crescita personale, perché si fanno delle esperienze veramente diverse da quelle che possono essere le gite scolastiche. Certo. Quindi per noi è molto importante, e lo è anche per il territorio, perché si parla di Europa in una maniera completamente diversa rispetto ai messaggi che arrivano insomma dalla TV, che sono sempre negativi. Questo è un messaggio positivo, insomma. E questo è quello che con la vostra associazione fate quotidianamente. Un'ultima domanda: l'associazione partner Youth Horizon è un'associazione greca. Che Grecia vi hanno raccontato? Che esperienza hanno portato? Insomma, abbiamo parlato molto delle situazioni dei vari paesi, anche perché ovviamente non solo balliamo, ma come vi dicevo facciamo anche delle attività di conoscenza appunto della situazione europea in generale. E quindi per esempio in un'attività abbiamo parlato molto dell'accoglienza dell'altro, e quindi così come insomma noi in Italia sono venuti fuori tanti pareri contrastanti rispetto per esempio all'accoglienza degli immigrati come posti, quindi una Grecia che in questo momento vive una situazione difficile anche rispetto alla possibilità ad accedere a questi programmi europei, però poi alla fine lo spirito che prevale è quella di guardare al futuro in maniera positiva e di ricominciare e di rimanere tutti uniti, insomma. asapeurope.eu è il sito di riferimento. Grazie davvero Maria Grazia Pinto. Grazie, ciao e buon voi. Sabato. Ciao ciao. Grazie, arrivederci. Ciao. Europost-it. Dal mercato comune all'Europa dei cittadini. Concorso per le scuole. In occasione del 60° anniversario dei Trattati di Roma, il Ministero dell'Istruzione, in collaborazione con il Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio, indice il concorso nazionale Dal mercato comune all'Europa dei cittadini, rivolto a tutte le scuole superiori. Obiettivo dell'iniziativa è promuovere la partecipazione consapevole e il coinvolgimento attivo delle giovani generazioni attraverso la scuola in un percorso di valorizzazione volto a migliorare la conoscenza dell'Unione Europea, delle sue istituzioni, delle sue politiche e dei programmi dal punto di vista storico, culturale, economico, sociale e normativo. La partecipazione è aperta a gruppi di studenti e a studenti singoli. Tutte le candidature dovranno essere inviate entro il 1 aprile 2016. Per informazioni, cercate il concorso Dal mercato comune all'Europa dei cittadini sul sito eurodesk.it. Radio24.it, da lì potrete riascoltare la puntata e trovare tutti i nostri Euro Post-it. Un grazie a Filippa Urreggi e Claudia Scattone, oggi in assistenza dall'altra parte del vetro, Miriam Lucchetti e Silvia Righini, che con me invece hanno scritto la puntata. Grazie a voi per essere stati, come sempre, in nostra compagnia. Ancora ciao da Federico Taddia. L'altra Europa. In collaborazione con Euronet Plus.